Oggi parleremo di te e più precisamente del festival che ci sarà a Bologna dall'1 al 3 marzo, il Te Festival. Siamo qui con una delle organizzatrici, lei è Carlotta Mariani. Ciao Carlotta. Ciao Claudio, buongiorno a tutti. È venuta qui a trovarci per raccontarci il programma innanzitutto di questo festival che si terrà a Palazzo Pallavicini, come dicevo, dall'1 al 3 marzo. Esatto, dall'1 al 3 marzo. Quest'anno è un festival molto variegato, con un programma molto ricco, perché abbiamo 4 sale e ognuna è dedicata a un tema diverso. Ci sarà una sala yoga con corsi gratuiti di varie discipline che si alterneranno per tutta la giornata. Ci sarà una sala dedicata invece alla parte più di formazione, con i corsi di Jane Pettigrew, che è una esperta a livello internazionale molto conosciuta nel mondo del tè. Lei parlerà di afternoon tea, quindi il rito del tè inglese, sia la sua storia, come si è formato, sia l'etichetta che i nuovi sviluppi. E poi avrà un corso specifico sulle nuove tendenze del tè. Ci saranno alcuni in questa sala dei miei corsi, uno di introduzione al mondo del tè, uno invece specifico sulla comunicazione del tè attraverso i social network, e infine ci saranno i corsi di Anna Poyan, che parlerà di due monorigine, una giapponese e una del Nepal. Lei è una grande viaggiatrice e conosce queste realtà molto da vicino. Abbiamo poi una sala che abbiamo chiamato lo stile italiano del tè, perché qui vediamo come il tè si possa declinare nella nostra cultura, quindi nella cucina, negli abbinamenti, nei cocktail, nell'abbinamento con il cioccolato, grazie alla collaborazione con la compagnia del cioccolato, attraverso la realtà della erboristeria, che forse è più vicina al nostro sentire rispetto a quello del tè, con Paola Agus, che parlerà dei 10 tè che non possono mancare per quanto riguarda l'aspetto della salute, del benessere, in ambienti come studi di naturopati, erboristerie, centri benessere. Ci sarà poi una sala workshop, diciamo, dove ci saranno varie interpretazioni del tè, dal tè nella famiglia reale inglese, grazie a una blogger, Marina Minelli, e il suo blog si chiama Altezza Reale. Ci sarà Jeff Fuchs, che è un alpinista e un documentarista canadese, che verrà apposta a Bologna per parlare della sua esperienza nel mondo del tè cinese e nepalese, e sarà anche l'autore delle fotografie della mostra fotografica che troverete nella prima sala. E si alterneranno poi altre interpretazione del tè per far capire a tutti quanti che il tè è una bevanda molto versatile e molto attuale. Innanzitutto noi ti ringraziamo, perché grazie alla tua spiegazione stiamo parlando del Tè Festival, probabilmente il più importante che c'è in Italia, e noi abbiamo la fortuna di avere qui a Bologna. In seconda cosa, perché sarà la passione che abbiamo visto nell'organizzazione, sarà anche le edizioni passate, è una cosa che può essere interessante sia per i neofiti, quindi per scoprire quelli che sono gli utilizzi del tè, quelle che sono le varietà, quelle che sono anche le cose più semplici, ma anche per molto esperti. Esatto, sì, ci sono corsi sia per chi si sta avvicinando per la prima volta, sia è solo curioso e vuole capire qualcosa di più di questa bevanda, sia chi invece già ha fatto delle esperienze in questo senso. In più c'è questa parte di yoga che, diciamo così, completa l'idea di benessere che dà il tè. E oltre allo yoga, mi dicevi, c'è anche una mostra fotografica che parla di viaggi, e di un canadese che si chiama Jeff Fuchs. Di cosa tratta? Sì, esatto, Jeff Fuchs è stato il primo occidentale a aver percorso l'antica via del tè tra il Yunnan cinese e il Tibet, e continua ad andare in questi luoghi a cui è molto affezionato. Parla anche il mandarino, quindi riesce ad avere rapporti speciali con le persone che stanno dietro alle foglie che noi beviamo in tazza. Tutto questo verrà proposto in questa mostra, che vuole far vedere i luoghi in cui viene coltivato il tè, ma anche le persone che stanno dietro a queste foglie. È una cosa a cui teniamo molto, e anche lui tiene molto. Sarà possibile poi anche incontrare Jeff Fuchs, che sarà presente al festival. Sarà presente, quindi, a portare una ventata occidentale nella parte orientale del mondo. Sì, esatto. Diciamo che mescoliamo questi due mondi alla ricerca di quello che noi abbiamo definito l'anno scorso lo stile italiano del tè. Un modo nostro, appunto, italiano di apprezzare questa bevanda millenaria, ma che è molto attuale, con tantissimi risvolti e possibilità di utilizzo che stiamo sperimentando proprio grazie a questo festival. Benissimo, noi ti ringraziamo Carlotta. Grazie, grazie a voi. E vi ricordiamo appunto l'appuntamento imperdibile a Palazzo Pallavicini, oltre ad essere una bellissima location in via San Felice 24, sarà anche la sede del Tè Festival 2019 a Bologna dall'1 al 3 marzo. Arrivederci al festival allora. Arrivederci.